Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a questa nuova puntata dal mondo della scuola. Il saluto come sempre da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia, con una nuova ospite che incontriamo per la prima volta nel nostro percorso. È la dottoressa Alessandra Fardin, che è presidente dell'associazione Vivere la cittadinanza di Conegliano. Benvenuta. Buongiorno, vi ringrazio per l'invito. Grazie per la disponibilità. Allora, iniziamo a conoscere questa vostra associazione per poi capire che cosa c'entra con il mondo della scuola, ma innanzitutto partirei da una breve cronistoria. Certo, la nostra associazione nasce 2 anni fa, il 22 aprile del 2010, con l'intenzione di sviluppare alcune tematiche inerenti all'ambito di educazione alla cittadinanza come insegnamento scolastico. E questo perché? Perché innanzitutto nasce da una curiosità che mi è venuta durante alcuni studi che feci qualche anno fa in Inghilterra. Analizzando il curriculum inglese vi troverai proprio questa nuova disciplina che in Inghilterra forma già da qualche anno degli insegnanti specifici in questo ruolo. E ho trovato interessanti sia le argomentazioni che vengono affrontate, sia la metodologia. Quindi le argomentazioni tendono a creare negli studenti una particolare sensibilità alla posizione attiva e consapevole nella società. La metodologia usata è una metodologia attiva, quindi si stimola e si incita lo studente, già all'interno del periodo scolastico obbligatorio, ad adottare un comportamento attivo e consapevole nei confronti della società, quindi lo si incita anche, lo si invita a creare dei propri percorsi di connessione con diversi ambiti o enti nella società civile. Tutte queste riflessioni, diciamo che riguardano l'ambito di studio, sono state poi anche confermate da alcune letture, ad esempio lo stesso testo Emergenza educativa di Monsignor Luigi Negri, dove si evidenziano proprio alcune carenze e alcune emergenze proprio che si rilevano dalla società, alcuni atti di bullismo, possono essere alcune difficoltà di integrazione, così anche a livello multiculturale degli studenti. Ma lo stesso Edgar Morin tocca questo ambito e parla della necessità di condividere un destino planetario. Ed è proprio l'intero sistema planetario che dovrà mutare, affrontando una serie di processi di riforma e di trasformazione. E questo dovuto al fatto che la globalizzazione rappresenta allo stesso tempo sia aspetti negativi che positivi. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, possiamo ad esempio avvicinarci agli aspetti positivi, perché tutti i componenti dell'umanità sono, secondo lui, chiamati, sono in questo momento proprio per la prima volta in una interconnessione e interdipendenti in maniera molto profonda, e quindi si devono sentire partecipi di un destino comune sulla base di una terra patria che, appunto, possiamo ripeterlo, non nega le singole patrie ma bensì le ingloba. E per quanto riguarda gli aspetti più negativi riguarda proprio la tendenza all'enfatizzazione di alcune logiche indiscriminate che riguardano ad esempio una visione univoca del profitto e di altre evoluzioni finanziarie, eccetera, che ci limitano dal punto di vista personale, ma creano proprio degli obiettivi che indirizzano talvolta anche l'educazione. Ecco, tornando un po' però alla nostra associazione, i nostri obiettivi sono quelli di promuovere iniziative socio-educative e culturali, di effettuare opera di ricerca e divulgazione in ambito educativo, di ricercare nuove coordinate per lo sviluppo di un rinnovato senso del benessere della persona e della comunità. Infatti l'associazione si pone nella prospettiva della formazione continua, cercando quindi di congiungere i processi educativi della scuola con quelli permanenti della comunità. In linea quindi con le direttive europee del lifelong learning, per una società di cittadini consapevoli e responsabili. Naturalmente, anche tenendo presente il Trattato di Lisbona con le competenze, i vari livelli di competenze, in particolar modo la sesta competenza che riguarda proprio lo sviluppo di tematiche riguardanti la cittadinanza. Infatti il nostro ambito prevalente di azione rimane proprio l'educazione alla cittadinanza, chiamato in ambito anglosassone citizenship, e in Italia si declina con educazione alla cittadinanza e Costituzione. Che è il nome della materia introdotta nel 2008, si chiama così, no? Cittadinanza e Costituzione. Sì, esattamente. Che non è però la vecchia educazione civica, quella che abbiamo fatto io e lei un po' di anni no, fa. No, non lo vuole essere, però si parte da una consapevolezza di base, che è quella della conoscenza della nostra Costituzione italiana, cosa che forse per qualche anno non è stata così a cui non è stato dato così ampio spazio anche all'interno del curriculum scolastico in Italia. Quindi voi vi rivolgete appunto prevalentemente all'ambito scolastico come attività? Sì, non solo. Cerchiamo proprio di proporre dei momenti di riflessione, degli eventi che mettano a fuoco la possibilità delle interconnessioni che ci dovrebbero a nostro avviso essere fra l'ambito scolastico, l'ambiente scolastico, quindi fra i giovani e le famiglie e la società più ampia, perché a nostro avviso affinché si possano analizzare o si possano avere delle prospettive comuni, è opportuno e importante che si parta da delle basi comuni, da delle basi di conoscenze comuni. Quindi a nostro avviso è importante condividere delle conoscenze comuni fra mondo scolastico, mondo, se possiamo dire così, dei genitori e mondo sociale. Quindi i nostri eventi sono normalmente aperti alla società e invitiamo i genitori caldamente a parteciparvi. E tra poco ci entreremo nel dettaglio, breve pausa e torniamo insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Mi ritrovo qua a racimolare sogni, visto che oramai li tengo incatenati da un po'. Trattengo il fiato giusto il tempo di intuire quanto mi vuoi bene. E mi ritrovo qua e non so che sapore ha. Mi avevano avvertito, succede all'improvviso, e quando meno te l'aspetti ti si colora il viso. È più vulnerabile dall'equilibrio stabile, si allarga la tua vita. E ti ritrovo qua, ma sai che sapore ha? Assumimi, non sono nei cassetti perché ci stanno stretti e rimangono a metà. Ed hanno paura del buio. Per questo non vanno compromessi, arrivano in diretta senza pubblicità. Di sbagliato, se c'è rimasto il sale, può darsi sia passato di qua. Tratteniamo il fiato giusto il tempo di intuire quanto ci vogliamo bene. Ma che sapore ha io e te? I sogni non sono nei cassetti perché ci stanno stretti e rimangono a metà. Crudeli bastardi come questo, colpo di fulmine. Arriva adesso e mette in disordine un disordine. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo conoscendo meglio l'associazione Vive la cittadinanza di Conegliano e con noi la presidente Alessandra Fardin. Abbiamo capito che questa associazione svolge promozione sociale nell'ambito scolastico, ma non solo, parlando di cittadinanza appunto. Le chiedo, dottoressa, chi siete voi che l'avete costituita, cioè che tipo di formazione, che tipo di persone promuovono, hanno promosso e tengono viva questa realtà? Varie persone di varie formazioni compongono la nostra associazione, ci sono dei professori universitari che sono stati soci promotori insieme a me e ad altri, ma anche componenti della società civile sono parte integrante della nostra associazione, di vari ambiti lavorativo, ambito dell'insegnamento, ambito anche dello studio e nell'ambito professionale di diverse provenienze, quindi ingegneri piuttosto che ambito economico e industriale. C'è un po' di tutto insomma di dentro, tutto, sì. Credo sia interessante conoscere il metodo, il modello a cui che applicate, a cui vi ispirate. In ambito europeo, educazione alla cittadinanza, diversamente nominata in ogni nazione, ha diverse aree di provenienza, quindi ci sono delle visioni un po' più diciamo ancorate a una vecchia concezione di educazione civica, quindi legate alla conoscenza prima di tutto della legislazione nazionale, europea oppure internazionale, o ci sono anche altri approcci più vasti, più ampi, che vedono una interconnessione con aspetti societari. Il modello che noi abbiamo preso a riferimento è il modello ottagonale, che è stato adottato anche dall'IEA, che è l'International Association for Evaluation of Educational Achievement, in quale è stato adottato anche per la terza indagine internazionale sull'educazione civica e cittadinanza, alla quale ha partecipato naturalmente anche l'Italia. Questo modello vede al centro il singolo studente, il quale e si ammette che nella sua formazione entrino diversi ambiti, quindi sia l'ambito formale, diciamo così, la comunità formale, quindi la comunità scolastica, sia l'ambito informale, quindi organizzazioni giovanili, organizzazioni di lavoro, ma molto importante viene ritenuto anche il gruppo dei pari e quindi tutti i comportamenti che a cui si trova di fronte lo studente, sia con i propri pari. Nel momento della sua crescita lo studente è molto influenzato dagli atteggiamenti, dalle critiche oppure dai giudizi o dalle approvazioni dell'ambito dei pari, ma nello stesso tempo tiene in evidenza anche l'aspetto degli insegnanti e quindi la partecipazione attiva a scuola, oppure anche la famiglia, i genitori e quindi tutto l'ambito familiare più allargato. Quindi ecco, noi cerchiamo di proporre delle iniziative che di volta in volta abbiano delle connessioni con i vari ambiti. Per fare questo siamo partiti con un questionario che abbiamo proposto all'inizio del 2011, in questo caso agli insegnanti, e l'obiettivo era quello di raccogliere le opinioni degli insegnanti in questo nuovo insegnamento che si sta introducendo in Italia, per raccogliere da loro alcune indicazioni su quali possono essere gli argomenti che a loro avviso sono inerenti a questo tipo di insegnamento. Ne è emerso in realtà che, conformemente con quanto è stato fatto partire dal Ministero della Pubblica Istruzione, il primo ambito da analizzare è proprio l'ambito della Costituzione italiana. Si avverte quindi una grande necessità di reintrodurre la conoscenza della Costituzione italiana. Mi permetto una battuta: anche i nostri politici sono inseriti in questo dibattito, perché stanno cercando di capire come si può modificare. Sì, è vero. A dire la verità, quando noi siamo partiti con questa nostra associazione, come dire, eravamo un po' guardati come degli alieni. Ecco, più o meno degli alieni, esattamente. Parlare di Costituzione sembrava una cosa davvero molto, molto lontana, a volte si dava per scontato, ma andando ad analizzare poi i principi, soprattutto fondativi della nostra associazione, forse non erano proprio così chiari, conosciuti da tutti, neanche in ambito scolastico. E quindi ci è sembrato utile poter affrontare questa tematica, ma abbiamo riscontrato con piacere che anche gli insegnanti condividevano con noi questa idea, questa iniziativa. Come altri ambiti di sviluppo, gli insegnanti hanno evidenziato la necessità di parlare di diritti umani, dell'ambiente sociale, di aspetti etici e così via. Quindi ecco, questi saranno ulteriori argomenti che gradualmente noi andremo ad inserire per poterli sviluppare anche con gli studenti. In seguito alle indicazioni emerse da questo questionario, abbiamo prodotto due serie di incontri di cultura costituzionale. Primo nella primavera del 2011, in cui abbiamo organizzato degli incontri di approfondimento, principalmente diretti agli insegnanti, ma aperti anche alla cittadinanza e agli studenti, che vi hanno anche partecipato, specialmente negli ultimi anni della scuola superiore. Abbiamo indagato l'ambito costituzionale, il momento della Costituente e così via. Nei primi incontri avevamo presenti il professor Giancarlo De Martin della LIUS di Roma e alcuni costituzionalisti dell'Università di Padova. Nel secondo anno, quindi nella primavera del 2012, abbiamo affrontato il secondo corso di incontri di cultura costituzionale, questa volta organizzando un incontro aperto al pubblico e agli insegnanti e due incontri diretti soprattutto agli studenti. Quindi gli studenti coinvolti in questo secondo gruppo di interventi hanno lavorato molto bene. In seguito alla esposizione della relazione del costituzionalista hanno sviluppato il tema che noi abbiamo toccato. Allora, il primo si trattava di un momento costituente, il secondo del rapporto di rappresentatività all'interno delle società democratiche. Abbiamo chiesto agli studenti di inventarsi in un brevissimo periodo di tempo, quindi mezz'ora, poco più, un argomento che loro avevano piacere di proporre alla società. Alcuni hanno sviluppato ad esempio un comitato per proporre o per discutere con gli insegnanti delle gite scolastiche, altri hanno trattato problemi etici come l'aborto e altri, comunque argomenti tutti molto importanti, molto impegnativi, e lo hanno fatto con grande disinvoltura in brevissimo tempo. La cosa importante è che tutti gli studenti si sono sentiti partecipi. Il nostro obiettivo principale era, oltre a quello che gli studenti lavorassero su un loro obiettivo, che tutti quanti avessero l'opportunità di dire la loro, perché a nostro avviso un motivo fondamentale che sta alla base proprio del nostro lavoro è quello di dar voce agli studenti e di far sì che loro si confrontino fra di loro in una metodologia di dialogo collaborativo e di dialogo democratico, perché anche questo è un obiettivo che sta alla base della nostra associazione. Noi vogliamo promuovere un dialogo collaborativo e democratico che riteniamo molto utile nella prossima, o già in questa società multiculturale. Allora, la fermo, ultima pausa e poi torniamo insieme per vedere anche quali saranno i prossimi appuntamenti e iniziative. Dal mondo della scuola. To go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss. Won't you stay another day? Don't you know we've come too far now, just to go and try to throw it all away. Thought I heard you say you love me. that your love was gonna be here to stay. I've only just begun to know you. All I can say is won't you stay just one more day. To go all away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss? Won't you stay another day? Touch your face while you are sleeping and hold your hand. Don't understand what's going on. Good times we had return to haunt me. Now it's for you. All that I do seems to be wrong. To go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss? Won't you stay another day? Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con la dottoressa Alessandra Fardin, presidente dell'associazione Vive la Cittadinanza di Conegliano. Non abbiamo detto il sito www.viverelacittadinanza.org, dove trovate ulteriori dettagli e approfondimenti, sito sempre in aggiornamento con gli ultimi eventi tenuti. E allora riprendiamo da quelli che avete svolto anche tempo fa, proprio rivolti a studenti e cittadinanza in generale. Sì, proprio l'8 di novembre abbiamo concluso la terza edizione di Play Music. È un evento che ci consente di affrontare l'argomento legalità, sempre molto ostico per ognuno di noi, ma ci ha consentito di affrontarlo anche con gli studenti. E la modalità che abbiamo pensato esserci utile per avvicinare gli studenti in questo argomento è stata la musica. La musica che gli studenti vivono come una necessità primaria alla loro età, nella loro età evolutiva, ci ha consentito proprio di parlare con loro di come scaricare la musica in modo corretto da internet. E quindi avevamo presente l'avvocato Andrea Marco Ricci, che a sua volta è fondatore e presidente di un'associazione che si occupa di diritti d'autore di Bologna, e con il quale ci ha portato gentilmente quest'anno un ospite molto importante come ogni anno, e quest'anno avevamo la cantante Francesca Michelin, vincitrice di X Factor lo scorso anno. Precedentemente abbiamo avuto il chitarrista di Ligabue e il gruppo The Sun. Nella seconda parte però di questa mattinata affrontiamo anche l'argomento di utilizzo di internet e dei social network, quindi con l'aiuto del responsabile della Polizia Postale del Veneto. E quest'anno c'è stata la dottoressa Michela Sambuchi, che ci ha illustrato i modi migliori e più sicuri per utilizzare i social network. E i miei ragazzi rispondono sempre molto bene a questo tipo di evento, in quanto si sentono coinvolti in prima persona. Un altro evento che abbiamo concluso il 10 di novembre è i modelli educativi europei a confronto, quest'anno giunto alla quarta edizione. È un evento che organizziamo in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi della Fondazione Movimento Bambino, che ha sede in Roma e Milano. Durante questo evento noi poniamo a confronto alcuni modelli educativi europei. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo confrontato alcune nazioni europee con Belgio, Francia e Spagna, ed abbiamo analizzato contemporaneamente anche l'aspetto dell'ascolto, quanto la scuola risponde con l'ascolto alle dinamiche, alle richieste che provengono dagli studenti e dalla scuola, e quanto sia importante l'ascolto in tutti gli ambiti sociali. Quindi abbiamo dei relatori che hanno affrontato questo tipo di tematica dal punto di vista psicologico, filosofico, antropologico, anche criminologo e pedagogico, naturalmente, che è un po' la base delle nostre analisi. Da quell'evento in particolare sta uscendo la Carta dell'Ascolto, che è un documento che ci permette di mettere allo stesso livello le considerazioni fatte dai relatori universitari con quelle che ci hanno portato gli studenti in quella mattinata. Questo mi permette di sottolineare un altro obiettivo importante della nostra associazione, che è quello di dar voce agli studenti, in quanto noi riteniamo che anche all'interno del periodo scolastico obbligatorio sia fondamentale che agli studenti venga permesso di parlare, di dar voce, e li abbiamo visti molto motivati e davvero contenti di poter parlare con il microfono in mano. A nostro avviso questo aspetto fa sì che gli studenti si sentano responsabilizzati delle loro affermazioni e di conseguenza dei loro comportamenti, e sempre a nostro avviso, ci auguriamo che sia condiviso anche, ci auguriamo che questo possa essere una metodologia preventiva anche nei confronti del bullismo. In effetti gli studenti, potendosi confrontare con delle persone che studiano determinati argomenti, hanno studiato determinati argomenti per tutta la loro vita, ecco, loro si sentono parte di questa analisi, di questa discussione, e quindi si sentono valorizzati, gratificati. Ecco, secondo noi questa è una metodologia fondamentale per poter prevenire gli atti di bullismo, ma anche una certa collaborazione all'interno della classe, perché le nostre classi sono sempre di più multiculturali, e quindi è importante che tutti gli studenti che vi partecipano abbiano la possibilità di esprimersi. E mi pare che anche nelle ultime settimane le piazze di tutta Italia e le scuole abbiano dimostrato che gli studenti hanno anche voglia, purtroppo magari anche con qualche eccesso, di farsi sentire, di far sentire la propria voce. Ed è proprio questo eccesso a cui noi vorremmo un attimino pensare, ed è proprio vorremmo lavorare in prevenzione. È secondo me fondamentale che gli studenti si sentano partecipi, vorremmo quasi dire anche della composizione del curriculum scolastico, oltre che della condivisione o della scelta delle uscite scolastiche. E allora, il nostro tempo purtroppo è esaurito. Io ringrazio la professoressa, dottoressa Alessandra Fardin, presidente dell'Associazione Vivere la Cittadinanza. Rimandiamo al sito anche per gli appuntamenti successivi, perché mi pare di capire che queste proposte che voi fate siano cicliche, quindi ogni anno ritornano sulla Costituzione, sulla musica, sulla cittadinanza in generale. www.viverelacittadinanza.org. Grazie dottoressa Fardin, alla prossima. Ringrazio voi per l'invito ancora. Grazie a Edidaici Regia, a voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallina, appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.